La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'articolo 112 riguarda l'obbligatorietà dell'azione penale, cioè il fatto che il pubblico ministero abbia l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'obbligo, non la facoltà. Perché? Perché sappiamo che il modello costituzionale cerca di garantire massimamente l'indipendenza della magistratura e quindi cerca soprattutto di sottrarla dalle influenze del governo, ovvio per ragioni storiche rispetto a ciò che era accaduto negli anni precedenti all'Assemblea Costituente. Allora, la pubblica accusa, il pubblico ministero, soprattutto per i processi penali, non è stato messo alle dipendenze del governo, temendo che ci potessero essere influenze politiche sulla scelta delle azioni penali da intraprendere, e quindi i pubblici ministeri fanno parte della magistratura anche se con garanzie di separazione. Poi sappiamo che negli anni si è spesso parlato del problema della separazione delle funzioni, della separazione delle carriere, proprio per voler sottolineare come ci possa essere un'esigenza che oggi, rispetto a un modello cambiato, il pubblico ministero possa non essere più un magistrato. Tuttavia, su questo punto si discute tanto, ma non si è ancora arrivati a una modifica costituzionale. Il punto importante, tuttavia, è che i pubblici ministeri, pur non essendo una funzione separata, sono una carriera separata, cioè nel senso che all'interno della magistratura svolgono particolari funzioni e hanno una garanzia di separazione. Ora, che cosa prevede la Costituzione? All'articolo 112 prevede che l'azione penale è obbligatoria, anche qui a garanzia dell'oggettività. Ogni volta che un pubblico ministero riceve una notizia di reato, deve iniziare l'azione penale. Non ha una discrezionalità, perché dietro la discrezionalità ci potrebbe essere l'idea che lui possa avere, per ragioni politiche, per qualsiasi ragione, la voglia di perseguire Antonio e non Pasquale. Ecco allora che l'azione penale va aperta. Ovviamente, aprire l'azione penale non significa che necessariamente si arrivi ad un processo, perché ovviamente alla fine delle indagini preliminari si può arrivare anche all'archiviazione, ove si rileva che la notizia di reato non è sussistente.